In diretta su CRM Happy Radio, va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, eccoci qui, secondo appuntamento della settimana. Oggi è il 29 di febbraio 2010, inizia quindi Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. www.crmhappyradio per richiedere le vostre canzoni e fare le vostre dediche. Partiamo subito con la musica, le vibrazioni. Baciami com'è una dea e lascia ampio il respiro. Accoglierà le tue pene, invadimi se vuoi. Ora che si disegna già l'alba in questa mattina, affronterò e ringrazierò. Diamo qualche notizia importante. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giusto, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Giusto, ma auguri giungono da noi tutti, a coloro che oggi compiono qualcosa, un compleanno, una data importante da ricordare. Oggi è il 60° giorno dall'inizio dell'anno e la Luna è al primo quarto e il Sole è nel segno dei Pesci. Continuiamo ancora con la musica, vi ricordo anche 0921 e poi abbiamo il 92 32 92. Affamati come lupi viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedo. No, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me, ma so che cambia il mondo se al mondo sto con te.

Non so se anche a voi capita di leggere una notizia e rattristarvi anche per il contenuto che essa esprime, come ad esempio questa notizia di un gioco erotico che è finita male al vice sindaco di Vignola Falissina in provincia di Trento, che il 22 scorso febbraio quindi è venuto a mancare proprio per questa gioco erotico. La morte è sopraggiunto per in seguito a un gioco praticamente erotico finito male. Con tutta probabilità si è trattato di una pratica bondage, che per intenderci è un insieme di pratiche sessuali basate sulla costrizione, quindi legatura, corsetti, cappucci e bavaglie. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Vi ricordo che siete su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire sia in diretta tramite il nostro streaming, che è www.crmhappyradio.it, o tramite le frequenze di modulazione. Questo è Antonello Venditti, salutiamo Antonella che ce l'ha richiesto. Unica. Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo, noi due due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che del terrore abbiamo fatto amore, noi due due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? Chi ti stringerà? Chi ti griderà? Sei unica, mio danno ed amore. E passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento. Perché non cadute dallo stesso ramo? Tu dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, con chi stai? Lui ti prenderà, lui ti stringerà, lui ti griderà, sei unica. Thank you.

fiori in the feeling inside, but I'm not one of those who can easily hide. Oh my, well I don't have much money, but boy your body, you know I'd buy a big house where we both could live. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom, flashback. I sit and wait, does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, non so se ieri sera avete avuto l'opportunità di seguire il TG1 e si è vista quella scena di Angela Merkel dove un cameriere alle spalle gli ha buttato addosso praticamente 5 bicchieri di birra pieni. Il video veramente è stato girato nel corso di una scena alla convention di partito. Penso a te, fuoco rosso, luce rondine tra le foglie, soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa fermarmi. E una foto un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto, aspettando di volare un po'. Eccoci qua, a guardare le nuvole, su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito? Stringimi oppure fingi di amarmi. Stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, l'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Slalom. Flashback. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai, e sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato muore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, meno ama il più forte, si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà, e allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. Sono d'accordo, parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna già in cerca di te. Su questo sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è, e questa è l'unica legge che c'è. We'll be right back.

Slalom. Flashback. Erano il 1979 quando i Dire Straits cantavano Lady Rider. Questa è CRM, la vostra radio. E questa è Slano, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Salutiamo i ragazzi del Golden Bar che veramente mi hanno deliziato con un buonissimo caffè. Grazie veramente. Ci voleva. Allora, Pippa Middleton, la nuova duchessa alla corte d'Inghilterra, è diventata famosa, lo sappiamo benissimo, per la sua parentela con la novella duchessa di Cambridge e il suo lato B. Il giorno delle nozze, infatti, ha destato l'attenzione di mezzo mondo. Ora, Pippa Middleton, sorella della più famosa, sembrerebbe diventare duchessa. Say you never. Ricordo che dal nostro sito potete fare le dediche e le vostre richieste, quindi vi ricordo che è il www.crmfradio.ccc. Ma se non avete a disposizione un computer potete sfruttare anche il nostro SMS che è il 335 56 37 251. Avete anche a disposizione il nostro numero di rete fissa che è lo 0921 92 32 92, da lì potete fare anche le vostre dediche e richieste. Salutiamo affettuosamente coloro che ci seguono a partire dalle 2 di notte, infatti un po' tutte le trasmissioni vanno in replica a partire da mezzanotte. Continuiamo ancora con la musica, prima diamo questa notizia abbastanza simpatica dove Casini e Di Pietro tramite Twitter stanno cambiando la società e quindi anche la politica, così accade. per questi due leader. Infatti, da avversari politici si trasforma in due amici che discutono su Twitter con toni più affettuosi, scatenando comunque un po' l'ironia degli utenti. Musica ancora su CRM, la vostra radio preferita. Oh, Una notte di presidio per i manifestanti della Nutav che hanno ripreso a occupare la 32 e la Torino Bardonecchio. Un centinaio di Nutav hanno tenuto aperto il presidio durante la notte gridando slogan a favore di Luca Abba. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà. Dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che

bisogno di sposare.